got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata, bentornati a Indovina chi viene a cena, nuova edizione, la trasmissione di Radio 24 che si occupa di identità attraverso la cucina, di migrazione attraverso le ricette, di nuovi italiani e italiani che hanno radici altrove attraverso i profumi, le spezie e gli odori che ciascuno di noi ha in valigia. Non possiamo prescindere dall'attualità, quindi stasera andiamo a cena in Siria, ma prima di presentare la nostra ospite vi faccio sentire questo sonoro. Ho poco appetito, ma la presenza del cibo mi rasserena. Che senso avrebbe dare da mangiare a qualcuno che stai per uccidere? Mi convinco che non ci ammazzeranno, almeno per il momento. Il cibo arriva in piatti di coccio e plastica. Ci sono uova, insalata di cavolo, marmellata di albicocche, pane e za'atar. Ci portano anche da bere. Mi sforzo di mangiare qualcosa, evitando sempre di guardare negli occhi chi ci porta il cibo. Ahmed mangia di gusto. «Hai paura?» mi chiede col suo musetto di lepre. «No», rispondo. «Secondo te ci lasciano andare?» «Certo», dice lui. «Stiamo aspettando solo che lo sheikh, il capo, arrivi per controllare le immagini e per farci restituire l'apparecchiatura». Finito di mangiare, mi siedo nell'ultima delle tre file posteriori del van. Mi sdraio per vedere il meno possibile ciò che ho intorno, ma soprattutto per non farmi vedere e non imbarazzarli. Mi allungo e trovo le cinque Bibbie. Sono in arabo, impolverate e segnate dal tempo. Inizio a fissare la mente su particolari inutili come le fessure degli altoparlanti del van. Un altro uomo armato e dal volto coperto chiede a Ziad, il nostro autista, di consegnargli le chiavi del mezzo. La situazione precipita e i miei sospetti non fanno altro che essere confermati. Siamo finiti nelle mani del peggior gruppo jihadista in Siria. Insomma, l'avete sentito questo snodo terribile, Come vuoi morire, Castelvecchi Editore, questo libro che si legge tutto d'un fiato della giornalista e scrittrice italo-siriana Susan Dabuz, che abbiamo in linea. Bentornata innanzitutto. Buonasera, grazie. Grazie di essere tornata per questa prima puntata di questa nuova edizione. Questo era un passaggio del tuo libro, è un libro appunto che si legge con molta partecipazione, perché è un libro dove si sente proprio la situazione nella quale tu ti sei trovata a vivere circa un anno e mezzo fa, no? Ad aprile 2013 per 11 giorni. Lavoravi come giornalista e sei stata sequestrata. Sì, siamo stati sequestrati con altri tre giornalisti italiani ad aprile del 2013 in circostanze che poi si sono rivelate particolarmente semplici per la risoluzione del nostro caso. Oggi ovviamente il mio pensiero va a rapimenti molto più complessi che appunto nello scenario siriano di oggi hanno preso contorni sia più difficili ma anche più inquietanti. Ti riferisci ovviamente a quello che abbiamo visto tutti purtroppo in televisione, ai due video dei giornalisti americani Foley e Sotloff che sono stati decapitati dall'ISIS. Sì, ovviamente, mi riferisco a questo, ma mi riferisco anche a altri rapimenti meno drammatici, sempre diciamo a scopi economici, che però in un quadro politico così ingarbugliato, dovuto anche a un tardivo intervento degli Stati Uniti e dell'alleanza, diciamo, dell'alleanza appunto che si sta configurando attorno a Barack Obama, ecco. Il fatto che si sta complicando il quadro politico internazionale, a mio avviso, fa sì che i rapimenti in Siria oggi siano decisamente più complicati di un anno e mezzo fa, quando appunto siamo stati presi noi e fortunatamente rilasciati dopo poco tempo. Che cosa hai provato quando hai visto questo video, questi due video molto forti, molto drammatici? Ovviamente non li ho visti per scelta personale, so perfettamente che cosa rappresentano, so che purtroppo sono veri, e il mio primo pensiero è andato alle famiglie delle persone rapite, con cui io sono in contatto privatamente, personalmente, e ho pensato appunto al loro dramma, non tanto a quello degli ostaggi, cioè delle persone che poi andavano a morire, no? In quegli istanti assolutamente drammatici. Questo perché comunque avendo io per prima personalmente ricevuto minacce di morte, mi sono immedesimata in quella condanna a morte, anche se poi la mia non si è verificata, perché poi mi hanno risparmiato e addirittura liberato. Però ecco, nel momento in cui io sono stata minacciata di morte, ho iniziato a configurare esattamente la mia esecuzione. La mia esecuzione mi ha scatenato una serie di riflessioni che non avrei mai pensato, ad esempio il fatto di vedere la morte come uno strumento di liberazione da una situazione, una circostanza orribile, che è una vita fatta di incertezze, perché non saprei mai se ti libereranno, non sai mai quando ti libereranno, e soprattutto non sai se morirai per mano dei tuoi aguzzini o morirai per una causa terza. Per cui ecco, quando arriva quel momento fatidico, hai un momento di paura terribile, ma anche improvvisamente di grande liberazione. Quando ti sei liberato dalla paura, improvvisamente ti senti forte, ti senti invincibile, tanto da ribaltare i ruoli e da vedere vittima il tuo carnefice, cioè vittima di se stesso, vittima di un destino orrendo che si è scelto. Già dal titolo, insomma, questo aleggiare della morte, come vuoi morire, è il titolo, e poi tu ti chiedi già all'inizio di questa prigionia se ci danno da mangiare. Forse vuol dire che non ci vogliono uccidere, non si nutre una persona per ucciderla, ecco. C'è spesso questo ritorno al cibo, no? Cibo che tu eri costretta a cucinare, cibo che Miriam, la tua carceriera, cucinava, e questo rapporto, insomma, con la morte e anche con l'essere ostaggi, quindi essere tutto sommato anche preziosi, no? In quel momento, per chi ti trattiene. Certo, e quelle erano le prime ore del sequestro, per cui era veramente difficile capire che natura di sequestro fosse, se fosse a scopo politico o a scopo economico. Io purtroppo avevo l'impressione che fosse a scopo appunto ideologico, politico, cioè abbiamo preso quattro stranieri, non dovevano essere qui, questo è il nostro territorio, noi imporremo l'Islam, loro sono quattro infedeli. Cioè, c'erano tutta una serie di ragioni per cui quel rapimento lì poteva appunto non essere a scopo economico, e questa era un'idea che mi terrorizzava, ovviamente, perché sapevo che la cosa avrebbe complicato molto. quanto al rapporto con il cibo, si può semplicemente ridurre al suo valore esistenziale e primordiale. Per cui quando perdi la libertà e non hai più l'esercizio delle funzioni, quelle normali a cui siamo abituati nella nostra vita, in cui scegliamo quello che facciamo, scegliamo dove andiamo, scegliamo di prendere il telefono e chiamare qualcuno, o di fissare un appuntamento, o di prendere un taxi, un aereo, una nave, una macchina, spostarci. Ecco, nel momento in cui tutto questo sparisce e la tua vita si riduce appunto ad uno stato di attività in cui c'è qualcuno che decide per te quando mangi e se puoi andare in bagno, ecco, tutto questo veramente riporta anche l'essere umano, cioè l'essere umano che è il mammifero più evoluto, no? Dal punto di vista del pensiero, ad uno stato primordiale. Quindi in quel momento il cibo è il cibo come sopravvivenza, il cibo diventa importante, l'acqua diventa importante, coprirsi dal freddo diventa importante, e sono tutti valori che appunto io sottolineo nel libro, appunto nelle descrizioni delle mie giornate, che ruotavano intorno al cibo. E che il cibo era importante anche per i rapitori, per dimostrare il rispetto fisico che avevano nei nostri confronti, non un rispetto morale, perché ci trovavano ovviamente sbagliati dal punto di vista morale, noi eravamo nell'errore, però era il loro, era la loro chiave di rispetto che volevano appunto dimostrare sul piano fisico. E questa è una cosa che io ho capito da subito. Però in questi giochi di potere, in queste altalene psicologiche, ovviamente c'era il momento in cui dicevo: possono anche darmi la zuppa di lenticchie e la cioccolata, ma se decidono di mettermi, piantarmi una pallottola sulla fronte, nessuno gli impedirà di farlo. Ecco, quindi c'era anche questo aspetto che alla fine paradossale, no? Certo. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Questa musica rap sirio-americana, anche dal punto di vista musicale, insomma, le primavere arabe sono state importanti, ma che fine ha fatto la primavera araba in Siria? La primavera araba in Siria, secondo me, è incarnata da quelle persone che non hanno perso la speranza in un paese che possa avere diritto rispetto per il diritto. Stiamo assistendo sicuramente a una delle fasi più drammatiche della storia dei paesi arabi e del Medio Oriente. Questo non significa però che da qui a 7, 8, 9, 10 anni non ci sia un mondo arabo diverso, non ci possa essere un futuro migliore. D'altra parte però quello che sta accadendo tra Siria e Iraq è molto inquietante. Anche in queste ore assistiamo a situazioni, citavamo prima i video che abbiamo visto negli ultimi 20 giorni delle decapitazioni dei due giornalisti, no? E tu hai visto proprio la genesi di questo ISIS, sì, o IS come vengono chiamati adesso, no? Che idea ti sei fatta di tutto questo? Gli stessi tuoi carcerieri non erano siriani? No, assolutamente, mi sono fatta l'idea di un gruppo di lotta, di jihad, di guerra santa, molto facilmente accessibile in un territorio come quello siro-iracheno, molto facilmente accessibile, contrariamente a altre jihad passate, non so, penso all'Afghanistan, al Pakistan, cioè zone più difficilmente raggiungibili, quindi questo fa sì che vengono reclutate tante persone anche con una scarsa esperienza o tanti giovani appunto che vengono dall'Europa perché subiscono il fascino, l'appeal di questa cultura militaresca e di cameratismo. Ecco, c'è poco di Islam tradizionale non c'è nulla, c'è una visione oscurantista di una lettura, diciamo, assolutamente lontana da quella che è la mentalità della gente della Siria e dell'Iraq, ragione per cui io credo che da qui ai prossimi appunto anni, nonostante quello a cui stiamo assistendo oggi è atroce, credo che abbia un suo anche una sorta di pulizia naturale, cioè quello che avverrà è che queste persone non verranno assolutamente accettate dai locali. Oggi vediamo queste fughe di massa, ma non è che un'intera popolazione può fuggire. Ci sarà appunto una forma di repulsione da parte appunto delle popolazioni locali che oggi vediamo sottomesse e che un domani potrebbero non esserlo più. صحابه بتعدي لكن مطرها كان اسيل فيضل اعمى جرف وما رحم حتى الحديد ابواب جهنم انفتحت مثل يوم الوعيد الجو تلبد غضب ومجهول صار الدرب الوحيد كشبر تحول ساحه حرب ومنطقه معزوله اعصاب الناس انهارت والحركه صارت مشلوله بلد راحت وتدمرت بين تطهير وتكفير ماتت ضحكه النصير انهانت دمعه النفير صار الواحد يطلع من بيته واحتمال يرجع Ma è vero che l'ISIS, per quello che sono le tue fonti anche di giornalista, si comporta con la popolazione locale quasi da stato nello stato, no? Fornendo anche dei servizi alla popolazione, quindi che c'è una sorta di contropartita nell'accettare questa presenza? Sì, assolutamente, però è anche un diciamo così, un servizio molto basilare e molto semplice e soprattutto molto affrontabile, sostenibile nel momento in cui stiamo parlando di un periodo molto, molto breve, quindi se vogliamo ragionare per assurdo applicando i nostri, diciamo così, paradigmi, vediamo che cosa succede dopo 3, 4, 5 anni di governo di ISIS, cioè oggi sì è vero riescono a diciamo così dare immediatamente delle risposte alla popolazione locale perché arrivano loro e non possono far vedere che il giorno dopo manca acqua, benzina ed elettricità, però è quello che avverrà esattamente in futuro, avverrà questo, cioè ci sarà una forma di maggiore organizzazione da parte di chi oggi viene sorpreso dalla loro presenza per appunto tagliargli tutte le possibili provvigioni, per cui non è molto difficile immaginare che loro possano essere, diciamo così, isolati intorno e si potrebbero ritrovare appunto con una popolazione alla fame. Ho sentito, leggendo il tuo libro e rileggendolo di recente, questo rapporto con Miriam, la giovane moglie del combattente jihadista che è stata la tua carceriera. In questo rapporto qualcosa di molto forte, tu dici abbiamo cucinato assieme, un valore quasi profondo di comunione al quale tu non ti sei sottratta, anzi l'hai quasi abbracciato questo rapporto. Sì, beh, io in quel momento ho visto in lei quello che era, innanzitutto umanamente, cioè era una ragazza molto giovane con un carattere solare, per cui lei mi ha accolto con un sorriso e questo per me era qualcosa di estremamente importante, aveva un valore enorme nel momento in cui mi trovavo in un contesto violento in cui ero circondata da uomini con il volto coperto, per cui io non solo non avevo visto un sorriso, ma non avevo visto nessun volto amico. Non avevo visto nessun volto in assoluto, cioè vedevo solo passamontagna che erano estremamente inquietanti, per cui questo è stato già il primo approccio positivo che non dimenticherò mai. Io e Miriam siamo due donne arabe culturalmente molto lontane, per cui ovviamente non posso dire che abbiamo avuto nessuna forma di complicità, nessuna forma di comprensione, ma ci siamo trovate a vivere insieme in una situazione estrema, che era quella appunto della guerra, per cui insieme preparavamo da mangiare per sopravvivere insieme, insieme ci coprivamo dalle bombe perché eravamo appunto purtroppo eravamo sotto bombardamento tutte le notti. Ci siamo confortate, cioè ci siamo ritrovate appunto in una situazione in cui lei era la mia carceriera, ma eravamo un po' prigioniere entrambe di un contesto di guerra. Ho letto in un'intervista che hai rilasciato, Miriam, è stata una proiezione di come sarei potuta essere se non fossi venuta a vivere in Italia, se non avessi avuto una mamma italiana oltre che un padre siriano, insomma una proiezione di te nata magari in un altro contesto, più che altro cresciuta in un altro contesto. Sì, assolutamente, cioè l'estremismo ideologico di Miriam è un estremismo che ho visto in modo sicuramente più attenuato, però in altre donne della mia famiglia siriana, cioè ovviamente non sposavano jihadisti, non andavano a fare le mogli dei terroristi, però posso dire che quel genere di estremismo da cui lei è stata toccata è un fenomeno assolutamente generalizzato di un certo tipo di contesto periferico, suburbano, delle grandi città o dei villaggi del mondo arabo, nel suo caso era la Tunisia, ma ci sono dei contesti assolutamente simili in Siria dove la povertà appunto purtroppo va a braccetto con il fanatismo. Una delle prerogative della cucina siriana è sicuramente il fatto di trovarsi di fronte a un popolo estremamente conviviale, cosa che si riflette nel fatto che i pasti si trasformano in qualcosa di più rispetto alla sola necessità di nutrirsi. La gastronomia siriana è influenzata da diversi popoli, ma in particolare dalla Francia. Tra gli antipasti freddi sono molto buoni i mutabbal, crema di melanzane, l'hummus, crema di ceci, il mammara, pasticcio di noci e peperoni, il fattouche, insalata con pane tostato, tra quelli caldi il fatayé, fagottini di pasta ripieni di carne, formaggio o spinaci, il sauda, fegato stufato in succo di melograno, e l'isanat, cervella e lingua d'agnello. Si prosegue con kebab, spiedini di carne tritata, kafta, carne tritata al forno con patate e pomodori, e il sukaf, spezzatino d'agnello grigliato. Fanno da contorno zucchine ripiene o melanzane in salsa di pomodoro. Il pasto si conclude con i dolci. Fra i più tipici, baklava, pasta sfoglia ripiena di noci, mandorle o pistacchi, e muallabiyeh, budini di riso aromatizzato con acqua di rose e pistacchi. Scrivi verso la fine del tuo libro: mi manca la Siria nonostante tutto, mi chiedo quando potrò riabbracciare i miei amici, le mie chiassose cugine, passeggiare per il souk di Damasco, mangiare il croissant caldo con formaggio filante e semini di sesamo, quel gelato, quel croissant più che un cibo per me sono un viaggio nell'inconscio, mi restituiscono i sapori di un'infanzia che non ricordo. Qui torniamo al cibo e ai ricordi della tua infanzia non vissuta ad Aleppo, ma insomma tu ci andavi per visitare la famiglia di tuo padre. Ci ritornerai? Beh sì, anche perché fortunatamente sono giovane e quando non sei morto ti accorgi che la vita è lunghissima, no? E questo è quello che scrivo nel libro. Ora che non sono morta, fortunatamente vedo che la vita è lunghissima. Ti ritornerò anche tra 10-15 anni. E cosa sono 10 anni in confronto alla vita? Anche mio padre, purtroppo poverino, per un lungo periodo non ha potuto mettere piede in Siria, poi c'è tornato, ora di nuovo non ci può andare per, diciamo così, tra virgolette, per colpa mia, però ci ritornerà, cioè io sono sicura che noi tutti della mia famiglia torneremo in Siria in qualche modo, insomma a modo nostro, ecco, magari è difficile immaginare di vivere lì, soprattutto se appunto oramai fanno parte di me determinati non solo valori, ma anche proprio, diciamo così, ritmi, no? Della vita europea o della vita occidentale. Detto questo, continuo a vivere in Medio Oriente perché appunto sono basata a Gerusalemme, per cui mi porto sempre un po' di Medio Oriente con me. E continui a raccontare quella parte di mondo come giornalista. Io ti ringrazio moltissimo per essere tornata con noi, Susan Davos, come vuoi morire Castelvecchi editore. E ringrazio tutti voi per l'ascolto. Valeria Bernardi in regia. Vi aspetto sabato prossimo. Buona serata a tutti. You've got to give a little. That's the glory of